Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione. Il progetto Voci 2018 ha per titolo La legislazione razzista in Italia, in quanto quest'anno 2018 ricorre l'anniversario della promulgazione delle leggi razziali, che è stata nel 1938. Ma il focus del progetto non sono tanto le leggi razziali in sé, ma quello che è accaduto dopo l'abrogazione delle leggi razziali in Italia. Il progetto Voci è giunto alla sua quarta annualità, di anno in anno ha lavorato su temi legati alla memoria, ricordo quello dell'anno scorso, dedicato ai bombardamenti, con la performance finale nella chiesa di San Francesco, che durante l'ultima guerra fu bombardata. Ma anche l'anno scorso si è cercato di riportare all'attualità il tema del bombardamento, andando a pensare quelli che sono stati e che continuano ad essere tutt'oggi i grandi bombardamenti sulle città. Quindi la città che diventa obiettivo militare, i civili diventano un obiettivo militare. Quest'anno, con questo tema, l'attenzione, come ho detto poc'anzi, è focalizzata su il permanere del pregiudizio antisemita dopo l'abrogazione delle leggi. Chiaro, tendenzialmente in Italia, perché ci interessa restringere il campo, e la ricerca che si è svolta attraverso i diversi laboratori che vengono attivati dal progetto è andata in questa direzione. Il laboratorio di storia a cura di Luca Alessandrini, che si è tenuto con una classe del liceo Sabin, ha raccolto una serie di materiali che si riferiscono al periodo delle leggi razziali, ma ha fatto una ricerca d'archivio anche su quello che è stato prodotto in termini di pubblicistica, di satira, di canzonette che nascondono in realtà una serie di pregiudizi che corrono sempre sotterranei. Il laboratorio di scenografia, che è stato realizzato con degli studenti dell'Istituto d'Arte, ha realizzato una installazione scenografica che è tuttora presente, è stata attivata presso l'Arena del Sole. L'Arena del Sole, entrando nel foyer sulla vostra destra, trovate una stanza, l'abbiamo chiamata Ezechiele e i tre porcellini, in cui il pubblico del teatro è invitato a entrare e dove trova degli aggiornamenti in corso del progetto nostro medesimo. Perché Ezechiele e i tre porcellini? Perché una delle cose interessanti che si sono trovate è come nell'edizione italiana del famoso cartone animato dei Tre Porcellini, che risale in realtà al 34, ma nell'edizione italiana del dopoguerra, il lupo cattivo, che in americano, in inglese, è il grande lupo cattivo, nella versione italiana viene chiamato Ezechiele. Che strano. Ricordo che una delle tre apparizioni del lupo che cerca di entrare nelle casette dei Tre Porcellini si presenta sotto le spoglie di un mercante ebreo che vende spazzole con tutti quei tratti somatici che sono chiaramente riferibili a quella che è stata la pubblicistica degli anni 30-40 nella Germania nazista. Il gran lupo non segna, non segna, non segna, il gran lupo non segna. Avrei delle bellissime spazzole e posso venderle per pochi soldi. Grazie. Adesso vi faccio vedere io, con un soffio vi butterò all'aria la casa. La attività, sempre legata al progetto, che si svolge presso invece il Conservatorio di Bologna, presso la Scuola di Musica Applicata del maestro Aurelio Zarelli, produrrà le musiche di scena dell'evento finale che si terrà il 25 aprile. Tra poco partirà il laboratorio teatrale per la realizzazione di questa performance che quest'anno si terrà nelle vie adiacenti alla sinagoga e nella sinagoga stessa. Quindi lo spettacolo dell'anno scorso sui bombardamenti fu ospitato all'interno della Basilica di San Francesco. Quest'anno il progetto Voci sulle leggi razziali viene allestito tra Via Finzi, la sinagoga stessa, la sinagoga grande e quella piccola, perché sotto la sinagoga grande c'è un gioiello, la chiamano sinagoga piccola, che tra l'altro non è conosciuta a Bologna, non c'è entrato quasi nessuno. Quindi sarà l'occasione durante questo evento di poter entrare in questo luogo segreto. E la performance finirà in via dei Gombrutti, quindi dall'altra parte, nella via parallela a via Finzi, con la conclusione dell'itinerario. Nell'ottantesimo anniversario della promulgazione della legislazione antisemita italiana è interessante e forse preoccupante riflettere sul permanere di pregiudizi che hanno sostenuto il disegno totalitario fascista attraverso anche l'arma, lo strumento, il ricorso all'antisemitismo. L'antisemitismo fascista è composto di diversi aspetti. Uno è quello che attinge alle radici storiche profonde del pregiudizio contro gli ebrei. Un pregiudizio che conosce due fasi, quella classica, antica, quella che risale alla giudeofobia cristiana, e l'antisemitismo moderno, in chiave biologica, in chiave scientifica, in chiave nazionalista. L'antisemitismo, quindi, è strutturato di diverse componenti. La giudeofobia cristiana nel nostro mondo è stata fondamentale nello strutturare questi pregiudizi. Il Mein Kampf di Hitler costruisce il proprio antisemitismo attorno a stereotipi che sono di chiara discendenza cristiana. Quando accade questo? Beh, a parte le conflittualità precedenti, non v'è dubbio che un passaggio nodale sia l'impero di Teodosio, il quale nel 380 dell'era volgare, con l'editto di Tessalonica, riconosce il credo niceno, cioè la religione cristiana uscita dal concilio di Nicea, quale unica e obbligatoria religione dello Stato, con il primato delle sedi episcopali di Roma e di Alessandria in materia di teologia. A fianco di Teodosio ci sono figure come Ambrogio, il santo di Milano, tanto venerato e consolidato, ma che in realtà era un violentissimo nemico degli ebrei. Scrive, per esempio, in un'interpretazione del Vangelo di San Luca Ambrogio, chi è colui che aveva nella sinagoga spirito immondo di demonio se non la folla dei giudei? E ancora, di fronte a un incendio di una sinagoga importante, discutendone con l'imperatore, scrive, epistola a Teodosio, io dichiaro di aver dato alle fiamme la sinagoga. Sì, sono stato io che ho dato l'incarico, perché non ci sia più nessun luogo dove Cristo venga negato. E più avanti spiega che bruciare le sinagoghe è un atto glorioso. Ora, la competizione tra le due religioni monoteiste in epoca romana imperiale porta l'impero a scegliere la religione cristiana, a farne religione di Stato e a combattere l'altra religione monoteista. Meno importante sono i pagani, il paganesimo è più facile da sconfiggere e meno afferrabile, mentre l'ebraismo è il vero nemico. Questo odio per gli ebrei accompagna la storia dei cristiani, sia cattolici che protestanti. Uno dei libri più violenti contro gli ebrei in assoluto è stato scritto da Martin Lutero, degli ebrei e delle loro menzogne, nel 1543. L'accusa è quella di deicidio. Gli ebrei sono quelli che hanno mandato a morte Cristo, facendo finta di ignorare che anche Cristo era ebreo e dunque non si tratta di uno scontro tra gli ebrei e Dio. Vengono espulsi gli ebrei dalla Spagna nel 1492, vengono perseguitati in vari modi, con la bolla pontificia Cum Nimis Absurdum, poiché è oltremodo assurdo, del 1555 Paolo IV ne limita i diritti e istituisce i ghetti. Thank you. Necrologio di Felice Momigliano, 1924, scritto da parte di padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università del Sacro Cuore di Milano. Un ebreo, professore di scuole medie, gran filosofo, grande socialista, Felice Momigliano, è morto suicida. I giornalisti senza spina dorsale hanno scritto necrologi piagnucolosi. Qualcuno ha accennato che era il rettore dell'università mazziniana. Qualche altro ha ricordato che era un positivista in ritardo. Ma se insieme con il positivismo, il socialismo e il libero pensiero e con il Momigliano morissero tutti i giudei che continuano l'opera dei giudei che hanno crocifisso nostro Signore, non è vero che al mondo si starebbe meglio? Sarebbe una liberazione? Ancora più completa se, prima di morire, pentiti, chiedessero l'acqua del battesimo. Questa giudeofobia cristiana si sovrappone il nuovo nazionalismo nell'età dell'imperialismo, a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, che trova un puntello nel nuovo spirito scientifico, proprio della stagione della filosofia positivista, per il quale tutto può essere spiegato scientificamente e dunque anche la differenza tra gli uomini, e dunque si inserisce la biologia in questo contesto e nasce il razzismo moderno, il razzismo scientifico, il razzismo su basi biologiche. Naturalmente la biologia qualche decennio dopo avrebbe negato completamente la possibilità che esistano razze umane, ma allora questo strumento è utile per sfruttare i paesi coloniali, se sono diversi e inferiori possiamo fare quel che ci pare, non si applicano i principi della eguaglianza e tra i paesi europei, se tedeschi e francesi sono diversi per natura, se è la natura a spingerli a combattere tra loro, non commettono peccato se confliggono. È la natura più forte di loro che li spinge. E dunque la fondazione della nuova nazione imperialista è basata su un'idea razzistica. L'idea di nazione non è più quella della Rivoluzione francese, un perimetro di un patto di cittadinanza, ma è l'idea di una nazione fondata sul nesso terra e sangue. Esiste una terra tradizionalmente, storicamente data a un popolo definito per sangue e dunque per razza. tratti dal laboratorio di scrittura del progetto Voci 2018. Tutti pensano che tutti giudicano dall'apparenza e non dal contenuto, che nei ristoranti cinesi si mangiano cani e gatti, che tutti vediamo i colori nello stesso modo, che gli ebrei si riconoscono dal naso ad unco, che tutti giudicano dal colore della pelle, che tutto sommato i gay sono molto simpatici. Tutti pensano che il razzismo non esiste, che pensa che pure è ebreo, che la legge è uguale per tutti, che i primi a essere razzisti sono gli ebrei, che siamo tutti fratelli, che quelli che sostengono che le razze non esistono non sono abbastanza informati. Tutti pensano che gli ebrei hanno naso per gli affari, che d'estate fa troppo caldo, che gli ebrei sono tutti gioiellieri, banchieri, strozzini, che a maggio il mondo è bello, pieno di colori e profumi, che gli ebrei sono capaci di venderti qualsiasi cosa, soprattutto pietà nei loro confronti, che la frutta non ha più il buon sapore di un tempo. Tutti pensano che ti vesti proprio come una zingara, ma tu l'hai mai conosciuta una zingara? Che l'apparenza inganna, che davvero una volta devi andare a letto con un africano per vedere com'è, che rispetto quello che dici, però che l'abito fa il monaco, come i soldi fanno l'ebreo, che i pareri sono pieni di difetti. Tutti pensano che la vita è bella, peccato solo che ci siano ebrei, neri e comunisti, che devi studiare per darti una posizione, che io non sono razzista, ma che però potevi studiare una cosa più utile, tipo ingegneria, che chi di razza ferisce, di razza perisce, che avere figli non va bene se vuoi avere una carriera, che chi si definisce antirazzista è un razzista mancato. Il laboratorio teatrale, che inizierà il 7 di aprile, è aperto alla cittadinanza. C'è una caratteristica particolare: è aperto alla cittadinanza perché per fare questa performance necessitano circa 150-180 figuranti. Quindi questo messaggio è anche un invito a chi fosse interessato di poter scrivere a info@teatrodelpratello.it per manifestare il proprio interesse e sarà ricontattato. tratto dal saggio di Hillman Puer Eternus. Un padre, volendo insegnare al figlio ad essere meno pauroso, ad avere più coraggio, lo fa saltare dai gradini di una scala. Lo mette in piedi sul secondo gradino e gli dice: «Salta, che ti prendo!» Il bambino salta. Poi lo piazza sul terzo gradino, dicendo: «Salta, che ti prendo!» E il bambino salta. Poi lo mette sul quarto gradino, dicendo: «Salta, che ti prendo!» Il bambino ha paura, ma poiché si fida del padre, fa quello che il padre gli dice e salta tra le sue braccia. Quindi il padre lo sistema sul quinto, sesto e settimo gradino, dicendo ogni volta: «Salta, che ti prendo!» E ogni volta il bambino salta e il padre lo afferra prontamente, continuando così per un po'. A un certo punto il bambino è su un gradino molto alto, ma salta ugualmente come in precedenza. Questa volta però il padre si tira indietro e il bambino cade, lungo disteso. Mentre tutto sanguinante e piangente si rimette in piedi, il padre gli dice: «Così impari, mai fidarti di un ebreo, neanche se è tuo padre». Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione.